i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Donne scomode, le combattenti garibaldine, di Anna Maria Isastia. Convegni e spettacoli teatrali ricordano i 200 anni dalla nascita di Rosemont Masson, 12 gennaio 1823, molto conosciuta ai suoi tempi per la vita avventurosa che visse, il suo patriottismo e per essere stata l'unica donna che si imbarcò a Quarto con i 1000 di Garibaldi il 5 maggio 1860. Altre donne arrivarono con le spedizioni successive, ma solo lei sbarcò a Marsala in abiti maschili l'11 maggio dal piroscafo Piemonte. Era una montanara di famiglia contadina, nata in Savoia, culla della dinastia Sabauda. Dopo la morte della madre, andò a cercare lavoro forse prima a Marsiglia, poi a Torino. Qui conobbe il rivoluzionario mazziniano Francesco Crispi intorno al 1849 e a lui si legò per la vita, mantenendolo per anni con il suo lavoro di lavandaia e stiratrice. Si sposarono con rito religioso a Malta a dicembre 1854 e si trasferirono poi a Londra. Su questo matrimonio si sono spesi fiumi di inchiostro perché Crispi, diventato ministro e poi capo del governo, lo dichiarò non valido per poter sposare nel 1878 una donna più giovane e più adatta alla sua nuova posizione sociale, suscitando uno scandalo enorme. Colei che aveva condiviso gli anni dell'esulato e della cospirazione, che aveva lavorato per mantenerlo, non era idonea a frequentare i salotti romani. Rose condivise la passione politica del marito e a Londra respirò l'atmosfera dell'esulato mazziniano. Per mantenere entrambi, lavorò come cuoca, lavandaia e donna tuttofare. Contemporaneamente fu attiva nelle reti clandestine mazziniane. Viaggiò vestita da contadina per trasportare carte e documenti segreti nascosti nei cesti di frutta e verdura. Portò ordini e istruzioni in Francia, dove poi i coniugi si trasferirono prima di raggiungere Torino e poi Genova. Nell'aprile del 1860, Rose collaborò attivamente all'organizzazione della spedizione garibaldina che ebbe proprio nel siciliano Crispi la mente politica. Raggiunse Marsala in nave per informare i patrioti siciliani dell'imminenza della spedizione. Dalla Sicilia proseguì poi per Malta, dove avvertì gli esuli Fabrizi e Tamaio e infine rientrò a Genova. Le donne sfuggivano più facilmente ai controlli di polizia e spesso era a loro che si affidavano missioni delicate a rischio. Una contadina di 37 anni passava inosservata ai controlli doganali. Rose chiede di potersi imbarcare con i volontari anche se il marito era contrario e Garibaldi aveva vietato a mogli, volontari e infermiere di prendere parte alla spedizione. Fu tanto tenace che riuscì a imbarcarsi sul piroscafo Piemonte dopo aver convinto, non si sa come, il generale. Nell'elenco ufficiale dei 1088 garibaldini partiti da Quarto all'alba del 5 maggio, al numero 662 si può leggere il nome di Rose Montmasson. Ha combattuto ovunque sia stato necessario, a Marsala, a Palermo, a Calatafimi imbracciando il fucile, ma anche soccorrendo i feriti. Ha fatto l'infermiera negli ospedali da campo a Vita, Salemi, Alcamo. È in Sicilia che probabilmente il suo nome si trasforma da Rose in Rosalì, la santa patrona di Palermo, mentre la sua figura assume una dimensione quasi mitica. Così la descrive un entusiastico cantore della spedizione, Giacomo Oddo. Fiera savoiarda, disinteressata, piena di coraggio, ardita più di quanto in donna soglia accadere, dall'animo vivace, anzi di fuoco, dalla parola pronta, dall'animo schietto, nato alla libertà e all'indipendenza. I 1000 di Marsala, scene rivoluzionarie, Milano 1863, pagina 252. Quello di Rosalì Montmasson non è un caso isolato nella storia del Risorgimento italiano. Sono parecchie le donne che hanno combattuto, spesso accanto al loro compagno. Durante la difesa della Repubblica Romana, a Porta San Pancrazio il 13 giugno 1849, cadde combattendo con la divisa da bersagliere Colomba Antonietti, moglie del conte Luigi Porzi, colpita dal fuoco francese. È sepolta nel mausoleo garibaldino sul Gianicolo e di lei scrissero Alexandre Dumas, padre, e Giosuè Carducci. Era vestita da uomo per combattere e a noi spesso sono giunte notizie di quelle che in battaglia sono morte, ma con delle eccezioni come quella di Antonia Masanello, una contadina nata a Montemerlo, alle pendici settentrionali dei Colli Euganei nel 1833. Faceva la portatrice di Brente, i mastelli che le donne adoperavano per il bucato. Dopo il matrimonio con il fornaio Bortolo Marinello, la coppia espatriò nel Modenese, dove lei si mise a fare la cucitrice. Nella primavera del 1860, la coppia venne a sapere che Garibaldi stava organizzando la spedizione in Sicilia. Antonia tagliò i capelli corti e indossò i pantaloni, per far credere di essere un uomo, e con il marito si diresse a Genova, dove a luglio si imbarcò sul piroscafo Torino, che trasportò la spedizione guidata dal pavese Gaetano Sacchi. Si tratta della quarta spedizione che sbarcò a Palermo più di 2000 volontari che si aggregarono alle Camicie Rosse a Messina alla fine di luglio. Il suo nome risulta nei registri dell'esercito meridionale conservati nell'archivio di Stato di Torino, inquadrata nel terzo reggimento della Brigata Sacchi con il nome di Antonio Marinello, il cognome del marito. Tra le note generali del suo profilo si legge però: trattasi in realtà di una donna, Antonia Masanello, conosciuta anche come Tonina Marinello. Sappiamo anche che diventò caporale e con il resto della Brigata Sacchi entrò a far parte della divisione agli ordini di Stefano Tur a partire dal 29 settembre. I pochi ufficiali a conoscenza del sesso di Antonia Antonio ebbero a dichiarare che avrebbero potuto comandare un battaglione se la sua condizione di donna non glielo avesse impedito. Mentre Curatolo, che nel 1913 pubblicò Garibaldi e le donne, scrisse che combatté strenuamente, fu promossa di grado e decorata sul campo della battaglia. Con i garibaldini attraversò lo stretto e risalì la penisola fino a Volturno, facendo il soldato tra i soldati fino all'11 novembre 1860, quando l'esercito meridionale di Garibaldi venne sciolto. Garibaldi aveva dichiarato che non voleva donne tra i suoi volontari, ma Rosalie Montmasson riuscì a convincerlo a farla partire con la prima gloriosa spedizione. Antonia Masanello raggiunse Garibaldi con la quarta spedizione e altre donne riuscirono a combattere travestite da garibaldino. Ce lo rivela lo stesso generale nel libro I Mille del 1874, quando racconta che ogni tanto durante i combattimenti spuntavano capelli lunghi di donne che avevano perso il copricapo che li nascondeva e i fermagli che li legavano. E descrive una Lina, detta figlia delle valli lombarde, e una Marzia, la romana. D'altra parte, non possiamo dimenticare che Anita, la donna della sua vita, era stata una grande e coraggiosa combattente in Sud America e lo aveva affiancato sia a cavallo che in mare. Anzi, era stata lei ad insegnargli ad andare a cavallo perché Garibaldi era un marinaio. Tra i nomi che riaffiorano dal passato c'è anche quello di Rosa Strozzi, moglie del capitano garibaldino Vincenzo Santini. Anche lei fu una combattente a difesa della Repubblica Romana nel 1849, presente poi in Sicilia nel 1860, dove guadagnò una medaglia al valore. Con la seconda spedizione di volontari, guidata da Giacomo Medici, che diventerà poi generale dell'esercito italiano, arrivò in Sicilia, insieme al marito Alberto Mario, anche l'inglese Jessie White, scrittrice, giornalista, intellettuale legatissima a Mazzini e a Garibaldi, grande propagandista della causa italiana nei paesi di lingua inglese. Svolse attività di infermiera e organizzatrice delle ambulanze, divenendo subito popolare per la sua sensibilità e per la capacità di infondere fiducia. Nella battaglia del Volturno, Jessie uscì allo scoperto 14 volte sotto il fuoco borbonico, sfidando la morte per portare soccorso ai garibaldini feriti. Nel 1862 raggiunse Garibaldi in Aspromonte e assisté il medico che lo curò per la ferita riportata nello scontro con l'esercito regolare piemontese. Nel 1867 fu nuovamente al suo fianco nella battaglia di Mentana. Nel 1870 accorse in Francia partecipando alla campagna dei Vosgi del generale. Dopo essere stata corrispondente di guerra per i giornali inglesi e americani, Jessie si dedicò a scrivere le biografie dei grandi protagonisti di quei decenni, tra cui Garibaldi. Vita di Giuseppe Garibaldi, 1882.